in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani e cominciamo come sempre dal Corriere della Sera. Oggi i giornali hanno titoli abbastanza diversificati, anche se c'è molto c'è molta enfasi sulla manifestazione che si è tenuta ieri a Roma con Landini, che ha lanciato questo movimento, partito, chiamiamolo come vogliamo, che si chiama Coalizione Sociale. Allora il titolo del Corriere è Sfida a sinistra sul governo, un'ulteriore demarcazione di quello che è successo è l'occhiello di questo titolo del Corriere, che è il duello. Infatti ci sarebbe appunto questo duello tra la solita maggioranza del PD e la minoranza del PD. Sono state dette parole anche abbastanza pesanti, come Renzi è peggio di Berlusconi, questo l'ha detto Landini, siamo stanchi di spot, e Renzi si è limitato a rispondere sono le uniche proteste al mondo che arrivano mentre l'occupazione migliora, perché sapete che settimana scorsa sono arrivati due importanti dati sulle nuove assunzioni, frutto soprattutto degli sgravi fiscali della legge di stabilità, e poi probabilmente anche qualcosa già dovuto al Jobs Act. La fotonotizia del Corriere della Sera viene dalla Nigeria. In Nigeria si sta votando, un voto importante, però un voto nel sangue. Decapitati da Boko Haram nel giorno delle elezioni. L'articolo è di Michele Farina. 60 di milioni di persone ieri hanno votato nelle elezioni più incerte della storia nigeriana e ci sono stati 20 morti per gli attacchi dei terroristi di Boko Haram. La Repubblica a sua volta titola sulla manifestazione di Roma: Landini sfida il governo, è peggio di Berlusconi, e poi la replica di Renzi: la crisi sta finendo. La fotonotizia in questo caso è dedicata alla tragedia dell'aereo della Germanwings che è precipitato mercoledì. La foto è di una dei parenti delle vittime. Come avrete sentito nei GR ma anche nei telegiornali di ieri, ci sono nuove rivelazioni sulle condizioni di salute del copilota suicida della Germanwings, Andreas Lubitz. Avrebbe avuto non soltanto dei problemi di depressione, quindi dei problemi psichiatrici, ma anche dei problemi alla vista, dei veri e propri problemi clinici medici che lo avrebbero ulteriormente depresso. Sono ancora però tutte illazioni e si moltiplicano giorno dopo giorno. Vi segnalo dalla prima pagina della Repubblica un reportage di Ettore Livini che nei mesi scorsi è stato anche spessissimo in Grecia per raccontare proprio la situazione della Grecia, e il titolo dell'articolo è Allarme Grecia, il piano B di Tsipras per restare nell'euro. Sapete che le negoziazioni sono in corso, settimana scorsa finalmente il premier Tsipras ha avuto un faccia a faccia a Berlino con la cancelliera Angela Merkel, ha di nuovo proposto una serie di misure che la Grecia sarebbe pronta ad attuare per avere finalmente un po' di flessibilità da parte dell'Unione Europea. Il piano non è ancora stato messo a punto e continua a esserci nell'aria un po' questo spettro della Grexit, cioè dell'uscita della Grecia non tanto dall'Unione Europea naturalmente, ma dalla zona euro. Ma vediamo il Sole 24 Ore che titola sul convegno che c'è stato ieri sulle piccole imprese a Venezia. Le parole sono quelle del presidente di Confindustria Squinzi: piccole imprese motore della crescita. Sapete che l'Italia è il paese delle piccole imprese, sono la cosiddetta spina dorsale del nostro sistema manifatturiero. Per alcuni anni si è detto che piccolo era brutto, ora si capisce che non è né brutto né bello, ci sono vantaggi e svantaggi delle piccole imprese che sicuramente però hanno resistito, anche se con tante sofferenze, alla crisi. E allora scrive Nicoletta Picchio da Venezia: le PMI sono il motore della crescita. Così Giorgio Squinzi al convegno della piccola industria e Confindustria a Venezia. Per il leader degli industriali bisogna far ripartire il paese e portare avanti il programma di riforme. Sui sindacati anche c'è stato un commento, perché naturalmente mentre era in corso il convegno a Venezia era in corso anche la manifestazione a Roma di cui abbiamo parlato, e Squinzi ha detto: hanno frenato tutto, continuano a cercare di frenare tutto, devono invece guardare avanti. L'editoriale di Luca Ricolfi, che sapete da poco più di un mese collabora con il Sole 24 Ore, segnali veri e segnali di fumo. La ripresa e i numeri di Renzi, vengono un po' ricapitolati i dati più importanti, anche quelli di cui parlavamo prima sul lavoro. E poi un interessante intervento di Giovanni Minoli, che naturalmente gli ascoltatori di Radio 24 conoscono benissimo, perché sapete che tra le tante riforme presentate negli ultimi giorni c'è quella della RAI, e Giovanni Minoli riflette su questa prima proposta, che poi andrà naturalmente discussa in Parlamento, di riforma della RAI, e si chiede: è tutta qui la rivoluzione sulla RAI? L'articolo inizia in prima pagina, continua a pagina 6. Come sempre la domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che si concentra su un titolo quotato. Oggi il titolo è Prima Industrie e trovate poi l'analisi a pagina 16. La prima pagina della Stampa, anche in questo caso la fotonotizia è dedicata alle foto scattate sul luogo in Francia, dove ci sono i parenti delle vittime che aspettano notizie sul riconoscimento tramite il DNA e comunque sono ancora appunto lì, la maggior parte non sono ancora tornati a casa. E allora, per esempio, la foto scelta dalla Stampa è quella della moglie, della figlia del pilota, non del copilota suicida, che fino all'ultimo, sappiamo dalla scatola nera, ha cercato di evitare che l'aereo si schiantasse. Anche qui moltissimi retroscena, come dicevamo, sulle nuove rivelazioni sulle condizioni di salute di Andreas Lubitz. Il titolo però principale della Stampa è dedicato al processo di Perugia. Sapete che dopo 8 anni è arrivata l'ennesima sentenza della Cassazione. I due principali imputati, Raffaele Sollecito e Amanda Knox, a questo punto sono ufficialmente innocenti, e però qui la stampa si concentra soprattutto sulla reazione dei genitori delle vittime, Meredith Kerschner. I genitori di Meredith, quei due assolti, giustizia non è fatta. In carcere, sappiamo, c'è Rudy Guede, che ha patteggiato tra l'altro una pena, si è dichiarato colpevole, quindi ha patteggiato una pena a 18 anni e ancora però si pensa che ci fossero dei complici, di cui però non si è riuscito a sapere nulla e probabilmente non si saprà più nulla. Il Messaggero ha un titolo completamente diverso, che riguarda un'inchiesta condotta dal Messaggero su quelli che sono i nuovi assunti, l'identikit. Chi sono i 79.000 contratti a tempo di cui parlavamo prima, annunciati appunto come effetto degli sgravi fiscali della legge di stabilità? Contratti a tempo indeterminato nei primi 2 mesi del 2015. Sono under 35, impiegati soprattutto nel settore dei servizi, scelti da piccole imprese, soprattutto nel nord-est. La fotonotizia in questo caso è dedicata alla soluzione appunto di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. La foto è di una Amanda Knox molto sorridente dopo aver appreso al telefono la sentenza della Cassazione. Pare che voglia tornare in Italia. Raffaele Sollecito ha detto che vorrebbe rivederla. Entrambi hanno paventato cause milionarie per danni, perché hanno trascorso 4 anni in carcere e soprattutto considerano questi 8 anni di incertezza giudiziaria un calvario da cui appunto devono essere in qualche modo risarciti. Ma vediamo l'Avvenire, che ha un titolo ancora diverso, tutto concentrato sull'intervento di ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Expo. Il Presidente ha ribadito come si debba cercare di dare un'immagine positiva dell'Italia e soprattutto contrastare i tentativi di corruzione. Il titolo: dall'Expo la semina di un'Italia nuova. Manca un mese di fatto all'inaugurazione della grande esposizione internazionale. Il Presidente della Repubblica evoca queste potenzialità, di questo evento. Ricordiamo purtroppo che la notizia però di ieri, una delle notizie di ieri, è anche che il Padiglione Italia per ora non è pronto e non si sa se sarà pronto per il 1° di maggio. In prima pagina anche naturalmente la manifestazione di ieri, ma soprattutto una foto di un bellissimo ulivo del Salento con però una croce rossa sopra, perché è uno dei modi per indicare che l'albero è malato, uno dei tanti alberi di ulivi attaccato da questo batterio, la Xylella, che è un flagello che ha ucciso tantissimi ulivi, tant'è che probabilmente già quest'anno, ma sicuramente l'anno prossimo, ci sarà uno scarsissimo raccolto di ulive e quindi anche una scarsissima produzione di olio d'oliva in Puglia, ma non soltanto. Il Giornale, vergogna nazionale, il riferimento è al processo Meredith, quindi si concentra il Giornale su questa notizia, che definisce tra l'altro la sentenza della Cassazione. Il Giornale definisce figuraccia mondiale dei giudici italiani, dopo 8 anni di dibattimenti non c'è ancora l'assassino. Un po' sulla stessa linea la copertina di Libero: tutto il mondo ride della giustizia italiana, anche in questo caso l'oggetto è l'omicidio di Perugia. La fotonotizia però è dedicata a due militanti dell'ISIS che uccidono un ostaggio e fa riferimento a una dichiarazione di ieri di un portavoce dell'ONU molto controversa, perché ha detto almeno questi dell'ISIS non sono razzisti, e Libero naturalmente contrasta questa inutile enfasi che viene data alle parole dell'ONU, o comunque mancata critica. In primo piano. Ancora buongiorno, ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, ci mancava solo quella del Manifesto, che ha una grande fotonotizia scattata ieri nella manifestazione di Roma. Il titolo è Cambio di stagione, Piazza del Popolo gremita, tanti giovani, la voglia di contrastare le politiche del governo. E come abbiamo visto, le dichiarazioni di Maurizio Landini, che ha detto che Renzi è peggio di Berlusconi, e l'abbraccio con la Camusso, che addirittura gli ha concesso un bacio, anche se non è direttamente intervenuta la segretaria generale della CGIL. Il Fatto Quotidiano titola invece su un'inchiesta fatta proprio dai giornalisti del Fatto Quotidiano, lo scandalo dell'antismog che ha ingrassato i soliti noti. Ci sono due procure, una a Torino e una a Roma, che indagano appunto sullo smog e soprattutto sulle misure antismog introdotte nelle varie città italiane. C'è però anche il titolo a centropagina su Landini riempie la piazza, asse contro il Movimento 5 Stelle contro il Jobs Act, perché sapete che ieri Di Battista e Morra, due esponenti del Movimento 5 Stelle, si sono detti pronti a collaborare con la FIOM e a sostenere un referendum per l'abrogazione del Jobs Act e per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Il PD sostanzialmente, secondo il Fatto, ha risposto: ci vediamo alle elezioni. Vi ricordo il contatore del Fatto, che abbiamo già citato domenica scorsa. Il Fatto tiene conto, per esempio, di quanti giorni sono passati da quando Pietro Grasso ha presentato la legge anticorruzione. Sono saliti a 744 e il Parlamento non l'ha ancora votata. E poi ci sono altri numeri. Forse un po' così insolitamente oggi l'editoriale di Marco Travaglio è abbastanza in sintonia con i titoli del giornale di Libero, che abbiamo visto molto critici sul processo di Perugia, il suicidio Meredith di Marco Travaglio, e si spiega appunto che secondo si riepilogano tutti i fatti. Questo processo durato 8 anni, che ha visto anche l'incarcerazione per 4 anni degli imputati che poi sono stati assolti, Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Ora resta in carcere solo Rudy Guede, ma secondo le carte aveva dei complici. Si saprà mai chi sono questi complici? Secondo Marco Travaglio probabilmente no. Infine la Gazzetta dello Sport, ieri sappiamo c'è stata questa partita della nazionale, l'oriundo è con te, naturalmente un gioco di parole, con puntini puntini te, cioè Conte. Eder, che ha debuttato appunto nella nazionale, ha fatto il gol che ha poi salvato appunto questa partita. Passiamo alle pagine interne dei quotidiani. Il Corriere della Sera ha una pagina intera, la pagina 15, a cura di Nando Pagnoncelli per la parte superiore, che ha fatto un sondaggio tra gli elettori del PD, da cui emerge che 4 elettori del PD su 5 pensano che De Luca deva rinunciare a correre. Chi è De Luca? È Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno dal 93. Il 1 marzo ha vinto le primarie con una percentuale molto alta, il 52%, per candidarsi a governatore della Campania e sostituire Caldoro, che in questo momento è l'unico governatore di Forza Italia di tutte le regioni, quindi sarà una partita importante anche per Forza Italia. Ebbene, in realtà lui non potrebbe nemmeno candidarsi, perché in questo momento è sospeso per le conseguenze della legge Severino, perché è stato condannato per un abuso d'ufficio. Sotto a questo sondaggio, che dice appunto che 4 elettori del PD su 5 dicono che dovrebbe rinunciare, c'è un'intervista di Marco De Marco allo stesso Vincenzo De Luca, che forse porterà gli elettori del PD a 5 su 5 a volere che rinunci a correre, perché alcune risposte sono francamente allucinanti. Io vi invito a leggere questa intervista per l'arroganza che ne emerge. Vi leggo alcune risposte. Ora, se eletto, per lei scatterà la sospensione prevista dalla legge Severino. Risposta di De Luca: se scatterà la sospensione farò ricorso al TAR e sarò reintegrato. Lui è già sicuro. Che scatti la sospensione è certo, incerto è semmai l'esito del suo ricorso, gli ricorda l'intervistatore, e poi la Cassazione potrebbe decidere sull'incompetenza del TAR. Risposta: non cambia nulla, chi vince governa. Domanda: nel senso che il voto popolare prevale sulla legge, ma non era Berlusconi a dire così? Risposta: sì, era lui. Io dico un'altra cosa, cioè che il voto deve spingere il legislatore a rivedere le leggi fatte con i piedi. E vabbè, è anche molto più lunga l'intervista, se volete leggerla, pagina 15. Ripeto, secondo me il sondaggio dice 4 elettori del PD su 5 pensano che De Luca debba rinunciare a correre. Dopo aver letto questa intervista saranno 5 su 5. A pagina 17 del Corriere, una bella pagina dedicata di Paolo Franchi a Pietro Ingrao, che compie 100 anni, personaggio storico della sinistra, tra l'altro visto che il Manifesto questa settimana pubblicherà una specie di album sulla vita di Pietro Ingrao, definito da Paolo Franchi il coltivatore del dubbio, amato dalla gente più che dal partito. Come sempre vi segnalo l'intervento alla domenica del Statistical Editor del Corriere della Sera, Danilo Taino, che ci ricorda qualche numero sulla sicurezza degli aerei, per tornare sempre alla certezza dei numeri quando si parla poi anche di fatti di cronaca. In questo caso cita il JACTEC, che è il Jet Airliner Crash Data Evaluation Center. Nel rapporto pubblicato nel 2015, riferito al 2014, questo annuario statistico indica che l'anno scorso il numero globale di morti nel trasporto aereo commerciale è aumentato di 4 volte rispetto al 2013. Bisogna dire però che il 2013 era stato un anno senza precedenti in fatto di sicurezza. JADEC misura anche la sicurezza di 60 delle maggiori compagnie del mondo e per farlo usa 8 criteri, e da qui appunto emerge che la compagnia migliore, cioè la più sicura nel 2014, è stata la Cathay Pacific, seguita da Emirates e poi EVA Air, e anche qui sempre tutti dati supportati appunto dai numeri, dalle statistiche. Dalla Repubblica, naturalmente, che dà molto spazio a quello che è successo ieri a Roma, 2 interviste, una di Rosi Bindi, una piazza da ascoltare, ma Matteo non è peggio di Berlusconi, meno male che lo dice Rosi Bindi, e poi invece un'altra intervista a Cesare Damiano, che è sì sempre un po' della sinistra del PD, è stato anche ministro del lavoro, però è meno critico verso Matteo Renzi di altri esponenti del PD, della sinistra del PD, tant'è che ieri lui non era a Roma, mentre Rosi Bindi sì, viene definita quella della sinistra del PD ed anche della FIOM una protesta antigoverno che non condivido, va sciolta l'ambiguità, dice Cesare Damiano. Una interessante pagina, secondo me, pagina 11, con un articolo di Thomas Schmidt tratto dallo Spiegel, che è uno dei due principali magazine tedeschi insieme a Stern, perché l'abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, questa tragedia di Germanwings e le falle probabilmente nel sistema di sicurezza e di controllo della salute dei piloti della Lufthansa, che è la compagnia madre di Germanwings, ha messo veramente molti dubbi nel mito dell'efficienza tedesca, non soltanto dall'esterno, abbiamo visto alcuni articoli molto critici anche in Italia, ma proprio da parte dei tedeschi. E allora ci scrive appunto Thomas Schmidt: non siamo infallibili, lo insegna il passato ma anche il presente, ora serve autocritica. Il mito della perfezione tedesca è finito? Se lo chiedono i media del paese, parlando di colpo alla hybris nazionale. Passiamo invece a un altro fatto di politica internazionale. C'è in programma una marcia importante a Tunisi contro i jihadisti, perché tutte le persone che appunto non condividono assolutamente le posizioni dei fondamentalisti dicono, vogliono ribadire anche di fronte al mondo, che l'Islam c'è in Tunisia naturalmente, ma è sinonimo e può essere sinonimo di democrazia. E poi, visto che siamo tutti freschi di ora legale, siamo tutti qui che abbiamo perso un'ora di sonno, interessante questo articolo di Silvia Bencivelli a pagina 23, che raccoglie un po' di pareri degli esperti. Pensate che l'ora legale per la prima volta fu introdotta in Italia nel 1916 e poi sincronizzata a livello europeo nel 1996. Ora in molti si chiedono se non sarebbe il caso di abolirla, perché in qualche modo sconvolge i nostri ritmi, oltre, come si sa, a sconvolgere per esempio quelli di della maggior parte degli animali. E quindi un appello di cronobiologi ha scritto una lettera al Parlamento europeo spiegando che lo stress, c'è uno stress veramente cronico che viene fuori da questi due cambi all'anno di ora, e che ha anche dei costi in termini di salute. Veniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore. Dicevamo, il convegno sulle PMI, trovate tutta la cronaca pagina 3 con l'intervento di Squinzi e anche di tanti rappresentanti delle PMI di tanti settori diversi. La prima pagina di Norme Tributi ricorda che da martedì, ricordiamocelo tutti, la pubblica amministrazione accetterà solo fatture digitali. locali e che sono 21.554 gli enti coinvolti per un totale, pensate, di 50 milioni di documenti in un anno che appunto diventeranno digitali. La prima pagina di Finanza e Mercati è dedicata a un importante accordo raggiunto ieri. Il gruppo Benetton ha venduto quella parte di business che non è core business, se pensiamo ancora al gruppo Benetton solo come a un gruppo tessile, che è quello di tutti i duty free, cioè quei negozi appunto dove non si pagano le tasse all'interno, soprattutto degli aeroporti. Questi duty free sono stati venduti a un colosso del settore che si chiama Dufree, quindi il 50,1% è passato a questo gruppo svizzero, un'operazione da 1,3 miliardi per il gruppo Benetton. Dalle pagine interne della Stampa, interessantissime reportage sulla chiusura dei cosiddetti manicomi criminali, gli OPG. C'è però, ci sono molti rischi, perché è un po' una misura che è stata decisa per legge, e però ci saranno delle conseguenze, perché naturalmente le persone che erano ospitate in queste strutture devono essere ricollocate. Quindi il 31 marzo l'Italia dice addio ai vecchi manicomi criminali. Paolo Russo ci spiega che con la nuova legge però molti internati pericolosi potrebbero uscire, e tra l'altro ci sono alcune regioni, in questo caso il Veneto, che sono senza un vero e proprio piano e quindi per esempio si sono appoggiati all'Emilia. Quindi tutto un reportage su questa questione, che sicuramente è importante che dal punto di vista culturale chiudere questi manicomi criminali, che spesso erano molto simili a lager, ma naturalmente bisognerebbe sempre avere subito pronta una soluzione e non cercare poi di tamponare magari delle soluzioni, delle situazioni di emergenza che dovessero emergere nei prossimi giorni. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Dalle pagine interne dei quotidiani vi segnalo un approfondimento del Messaggero, pagina 5, sulla Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca, una delle più grandi in Europa, padrona della Germanwings, naturalmente facciamo riferimento all'incidente aereo, è il crollo di un mito, scrive Flaminia Bussotti. Facendo un'analisi di questo colosso aereo, le prime parole le ricorderete, dette dall'amministratore delegato Sfor: ora abbiamo i piloti migliori, però stanno anche emergendo le carenze sui controlli, e c'è stata, forse lo ricorderete, qualche mese fa anche una lunghissima vertenza con i piloti, con uno sciopero a sorpresa che ha bloccato il traffico aereo di fatto europeo per alcuni giorni, e il Messaggero dà conto di delle reazioni della stampa tedesca, come del resto abbiamo visto anche su Repubblica con l'articolo apparso su Spiegel, uno dei due magazine principali, dei news magazine tedeschi. Torniamo un attimo al processo di Perugia. C'è una interessantissima, secondo me, presa di posizione che ho trovato solo sul giornale, da parte di Alan Dershowitz, che è uno dei più importanti penalisti americani, a 76 anni, forse alcuni lo ricordano perché è anche protagonista del film Il mistero von Bulov, dove fece assolvere, una storia vera tratta dal libro che racconta come Dershowitz fece assolvere appunto von Bulov dall'accusa di aver ucciso la moglie. Secondo Alan Dershowitz, che ha guardato le carte del processo, Amanda Knox è stata salvata dal fatto che il processo si sia tenuto in Italia, perché in America, con le prove raccolte, con gli indizi, sarebbe stata sicuramente condannata. Quindi si dice, insomma, in mezzo a tante critiche a questo processo, una voce dall'America. E poi una, secondo me, meritevolissima pagina del giornale, all'interno, nella pagina di cultura, dedicata alle quelle che vengono definite le mille meraviglie arabe della biblioteca cristiana. A Milano c'è questa stupenda biblioteca che si chiama Ambrosiana e che conserva, ci racconta Matteo Sacchi, alcuni dei codici yemeniti più preziosi al mondo. Dai tempi di Federico Borromeo qui si studia la cultura islamica. Perché dico meritevolissima? Perché se da una parte naturalmente il giornale è stato ed è forse uno dei quotidiani più critici verso il fondamentalismo islamico, ricordare quanta storia culturale pacifica e quanta cultura dell'Occidente sia comunque affondi le sue radici anche nell'Islam, trovo appunto meritevole, tanto che questo tesoro custodito all'Ambrosiana viene definito, spiegato, come pieno di miniature e testi antichissimi di dotti ulema. Sapete, gli ulema sono coloro che poi interpretano il Corano, capolavori che gli integralisti di oggi considererebbero eretici. Ecco come lo studio appunto potrebbe salvare il mondo, invece si dimentica spesso di appunto di studiare gli antichi maestri. passiamo un attimo torniamo all'Avvenire, che parla, approfondisce le elezioni in Nigeria, un interessantissimo articolo di Paolo Alfieri. Boko Haram attacca e c'è un riepilogo di tutte le minacce che Boko Haram sta lanciando in Nigeria. E poi un altro approfondimento che ho trovato solo sul Messaggero, solo sull'Avvenire, sulla corsa all'oro che c'è in questo momento di nuovo in Africa. La caccia alle nuove miniere colpisce ora Costa d'Avorio e Mali, e sappiamo che insomma questo tipo di sfruttamento intensivo delle miniere può anche risultare molto nocivo. Abbiamo tempo, non tanto ma un pochino sì, per guardare gli approfondimenti. Il domenicale naturalmente lo approfondirete poi con Alessio Maurizi e Armando Massarenti più tardi, però intanto vi cito la copertina, che è dedicata a due libri di un carteggio tra Brodel, il grande storico, e Chabot, e Sergio Luzzato ci spiega appunto tutte le novità di questo dotto scambio di lettere tra i due studiosi. Vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si chiama Ascoltare. La citazione è questa: troppo spesso noi crediamo che Dio non ascolti le nostre domande, in realtà siamo noi che non ascoltiamo le sue risposte. La citazione è di Clive Staple Lewis, ci spiega Gianfranco Ravasi, docente di letteratura inglese prima a Oxford, poi a Cambridge, dove morì nel 63. Clive Staple Lewis è però più noto per i suoi romanzi di fantascienza cristiana e per i suoi scritti di spiritualità. È da uno di questi che abbiamo desunto una nota suggestiva che fa un po' l'eco a un detto di Gesù: quando pregate, non sprecate parole, perché il Padre vostro sa di cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Assillare Dio e il prossimo con le nostre richieste, senza arrestarsi per ascoltare le risposte, è un atteggiamento ormai consueto. Non si è più abituati ad ascoltare tutto quello che l'altro dice, ad ascoltare prima quello che l'altro dice. Basta assistere a un dibattito televisivo per averne conferma. Ciò che conta è invece solo il nostro dire prima e tutto, anche prevaricando sull'altro. La rubrica Memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, è dedicato a Gerhard Schröder, il cancelliere tedesco, che è stato ospite questa settimana a Milano per il Salone del Risparmio. Ha partecipato all'inaugurazione nell'Aula Magna della Bocconi. Il direttore l'ha incontrato, gli ha chiesto delle riforme, e vi leggo l'ultima parte di questo memorandum intitolato Il doppio nine di Schröder e il futuro dei giovani italiani. Risponde Schröder a una domanda sulle riforme introdotte dal suo governo, fatta dal direttore napoletano: mi creda, l'immagine storica di Renzi dipenderà dal fatto se riuscirà davvero a fare o no le riforme. Se ci riesce, può darsi non sia eretto, ma la sua importanza per il paese resterà per sempre. Se non riesce a farle, rischia comunque di non essere rieletto. E scrive Napoletano: non ho ben capito se Schröder faccia il tifo per Renzi, ma so quello che serve al paese e che lui deve assolutamente realizzare. L'intelligenza della politica può aiutare, ma la differenza la fanno visione, fatica, qualità degli uomini e capacità operativa. Vincere elezioni è importante, assicurare un futuro ai nostri giovani molto, ma molto di più. E appunto il riferimento è chiaramente alla vicenda di Schröder, che introdusse delle riforme importantissime, soprattutto sul lavoro, il cosiddetto pacchetto Hartz 5, non fu rieletto, forse anche a causa delle conseguenze immediate di quelle riforme, ma adesso viene ricordato come appunto uno che ha avuto un posto importante nella riforma del mercato del lavoro tedesco, che all'epoca aveva grande bisogno di riforme. E qui naturalmente sempre il grande dibattito se lo statista deve guardare appunto veramente al futuro o alla sua poltrona e alla sua rielezione. La lettura, il supplemento del Corriere della Sera, la copertina è affidata all'artista Lawrence Carroll, ma vi segnalo le prime due pagine curate da Pierluigi Battista, Libri che contano più degli altri, un articolo che prende spunto da un libro pubblicato da Andrew Taylor, I 50 libri che hanno cambiato il mondo, e dove si spiega insomma che effettivamente si può fare una selezione dei libri che forse davvero vale la pena di leggere più di altri, anche se poi io sono convinta che valga la pena di leggere qualsiasi libro. Poi se non piace, come dice Pennac, uno dei diritti del lettore è chiudere il libro, lasciarlo lì e andare a cercarne uno che lo ispiri di più. Vi segnalo la copertina della Domenica della Repubblica, il supplemento culturale della Domenica, dedicato a Anna Frank, non tanto al suo diario, famosissimo diario di Anna Frank, ma a un piccolo libro che è uscito, il libro dei pensieri, 30 citazioni di Anna Frank, sempre giovanissima, che ci aprono ancora un'altra finestra sulla estrema sensibilità di questa bambina, che poi appunto è passata la storia per il suo diario, ritrovato dopo che fu internata ad Auschwitz, dove poi trovò la morte insieme alla maggior parte dei suoi familiari. E poi vi segnalo due pagine bellissime che prendono anche un po' po' spunto dalla Fiera del Libro dei Ragazzi di Bologna, con un articolo di Lorenzo Mattotti, che è un grandissimo illustratore, un artista, ha illustrato anche fumetti, ma ha illustrato molti libri per bambini, e si chiede: ma i bambini li guardano questi disegni? E si risponde: non importa quanto siano complicati e astratti, importa quanti mondi aprano. La prima pagina di Macro, il supplemento del Messaggero, generazione di fenomeni, Mario Aiello ci racconta un po' quei 40-50enni che erroneamente forse ascrivibile alla generazione dei bamboccioni, in realtà hanno fatto anche cose egregie. Parliamo di italiani: Federico Marchetti, fondatore di Yux, o Ingenious Straffi, fondatore di Rainbow, cioè le Winx, oppure Massimo Banzi, uno dei cofondatori della piattaforma Arduino, che consente di progettare in 3D, sapete, la grande frontiera tecnologica del futuro. Grazie a Peter Bescapè in regia, che mi ha tenuto nei tempi. Ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.